ogni mercoledì sera c'è prove tecniche di trasmissione, un appuntamento esistente ormai dal lontano 1992 che si occupa di suoni inerenti all'elettronica, all'industrial, al dark ambient, al noise e tutto ciò che concerne il concetto di sperimentazione. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Questa sera 25 o'clock non andrà in onda e quindi saremo l'ultimo spazio in diretta. Cominciamo con il salutale Raffaele Pezzella da Napoli, Like a Wake da Roma, Gabriel Edvi from London, Rodrigo anche lui da Londra. E gli altri pian pianino li diremo nel proseguimento della trasmissione. Il telefono di questa emittente è 06 49 17 50. Il sito internet è www.ondarossa.info anche per usufruire dello streaming. Per quanto riguarda il lato sottoscrizione, ricordiamo ancora una volta il conto corrente postale che è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Brioschi 56 00 185, Roma. Salutiamo Alessandre anche qui da Roma in probabile ascolto. Animus Retinentia, ultimo lavoro per lo svedese Peter Bjargo, generalmente conosciuto per la sua attività con Arcana e Sofia, ma di tanto in tanto si lascia andare anche questi suoi assoli con il suo nome. E da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare Memories Number 2 e In Agony. abbiamo iniziato con questo ultimo lavoro di Peter Biargo, questo Animus Retinensia, quarto lavoro dal sottofondo e dall'afflato decisamente gotico, un po' a metà anche con atmosfere neoclassiche e neofolk. Intanto si va a salutare Enrico Carrino da Battipaglia, Nicola Locci dalla Sardegna, che sentiremo più avanti come Stigmate, un progetto italiano molto interessante. E Alexia qui da Roma. Nei saluti iniziali abbiamo anche salutato Raffaele Pezzella, che ormai è un big di questi spazi radiofonici, soprattutto grazie alla sua instancabile attività di ricercatore musicale di talenti più o meno nascosti. È a lui che dobbiamo questo Belgian Experimental Underground 70 Survey, ennesimo passaggio per questa monumentale compilation riguardante la scena belga. E questa sera è il turno di un personaggio alquanto misterioso già dal nome, si chiama Revin Veer, anticipato da una W puntata che potrebbe essere William o chissà cosa, magari Raffaele ce lo può dire. La cosa sicura è che il pezzo si chiama Cross Eyes Underwater. Il signor dunque Revenbeer, alias Erwin van Loveren, di evidente origine fiamminga, estratto da questa, da questo Belgium Experimental Underground 17 Survey. E salutiamo Victor che ci ha chiamato Aurora dalla sua automobile, Victor degli Ote, un gruppo che anche che popola anche il nostro cosiddetto compagno automatico. Dunque questo è uno dei passaggi più radicali di questa compilation di Raffaele Pezzella. Un compendio che, sulla, sul quale torneremo anche la prossima settimana. Noi si va avanti e ci inoltriamo in questa, in un'altra compilation di un vero e proprio pezzo di storia della scena esoterico-industriale. Trattasi degli SPK, un acronimo che negli anni ha significato diverse cose. Socialistisch Patienten Collective, per esempio, Surgical Penis Clinic, Seppuku e altre cose ancora. E da questa compilation tracks ci ascoltiamo due passaggi invece, diciamo, più elettronici e più fruibili rispetto ad altre cose che abbiamo mandato nelle scorse settimane, ossia Metal Dance e Metal Field. Controversa Metal Dance, invece adesso Metal Field di qualche anno prima, sempre SPK da questo Compilation Tracks. Un saluto a una new entry qui di Prove Tecniche di Trasmissione, il buon Gianni Marsala dell'omonimo progetto Industrial Noise Marsala, che un giorno magari conosceremo meglio e manderemo anche in onda. We'll be right back. SPK dunque da questo compilation tracks in questi due momenti abbastanza diversi tra di loro, la metal dance che fu una fase breve che era un prodromo verso la fine però del progetto SPK, quindi la fase più synth pop e IBM, e invece Metal Field estratta da Auto da Fe, un disco che uscì inizialmente nel 1983. Attraverso un'etichetta, la Walter Ulbrich Schallfolien, un'etichetta dal profilo anche politico, che stampò dischi di gruppi famosi come Dropping Grister e anche gli stessi Laibach. Credo un'esperienza di origine trotskista, non vorrei sbagliare, ma tant'è. Ebbene, noi lasciamo dunque i SPK, andiamo avanti e torniamo ai giorni nostri. Intanto salutiamo anche Luca da Ostia e ci andiamo ad ascoltare l'ultimo lavoro di Dirk Evans attraverso il suo pseudonimo Dive. Si chiama Undernet, questo lungo non direi, anzi direi corto lavoro, ma che esce dopo un lungo silenzio, esattamente dal 2003, da Beyond the Sun. Ci andiamo ad ascoltare le tracce che lo vanno a concludere, Melt e I Want You. Yeah. ennesima ultima buona uscita per quanto riguarda Dive, Dirk Evans, vecchia volpe della scena IBM Industrial. Un ottimo lavoro che porta il nome di Undernet, collaborazioni eccellenti, significative quelle di Ivan Iusco, che collaborava anche nella prima traccia che abbiamo mandato, Melt, e Rafael Espinosa, ossia Guys Form, realtà, ottima realtà del Tech Noise, in questa I Want You che andava a concludere Undernet. Uno dei progetti storici e sempre vincenti, ormai in attività da 27 anni, il primo lavoro ricordiamo del 1990, proprio The First Album, che usciva, guarda un po', proprio per qui in Italia quantomeno, attraverso la Minus Habens, l'etichetta fondata da Ivan Iusco, testé nominato. Di grosso calibro a grosso calibro, lui o loro anzi sono i Zoschia Coil, in questa prima fase, primordiale fase del progetto di John Balance e Peter Christofferson. E insieme a Zoschia soltanto questo lavoro dal nome Transparent nel 1983. Ci ascoltiamo Truth e On Balance. I believe you is true. The truth has not been in your courtroom. Never has been in your courtroom. All you have is confusion in your courtroom. Why do I have to stand and take the blame for your sins again? I spent my life in jail, paying for you, so that you could ride your bicycle, have your birthday parties, have what you'd call a life. You know, I never had a life. I don't even know what life is, you know. I go to the desert, I'm not even allowed to live in your desert. I'm no good for anything except to be used. You're a scapegoat. I'm used. Every day of my life I've been used. When I haven't been used and I have been on the street, I've been chased, run, harassed, pushed, kicked. My ribs have been broken, you know. The same man that gives you a traffic ticket is the same guy that knocks my brains out. He thinks it's just because he is the man. Nobody's gonna say anything. My daddy's not a congressman, a doctor, or a lawyer. They're sneaking in the county jail, looking under the door to see the man. Sneaking like that. Sneaking. Sneaking out of the ventilator, sneaking everywhere. They were bringing Sneaky up around Sneakyville. It seems a shame to sneak to get to the truth, to make the truth such an evil, dirty, little nasty thing. You gotta sneak to get to the truth. The truth is condemned. In your stockyards. The truth has been in your reservation, building your railroads, emptying your garbage. The truth is in your ghettos, your jails. The young lad, not in your courts or your congress, where the old sit judgment on the young. What the hell do the old know about the young? They put a picture of old George on the dollar and tell you that he's your father, worship him. Look at the madness that goes on. You can't prove anything that happened yesterday. Now is the only thing that's real. You can try to prove that Columbus sailed on an ocean. But it's not the same ocean. It's a different ocean. It's a different world. Every day, every reality is a new reality. Every new reality is a new horizon.